fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. È inutile che ci turiamo il naso, è inutile che diciamo che noi di certi fenomeni non ci interessiamo, che non ci contaminano, che non ci sfiorano, che fa parte di una bassa lettura dell'umanità destinata a un'umanità che naturalmente si contempla e si compiace soltanto delle proprie bassezze. Ma esistono dei segni, degli indicatori, a volte molto percettibili in alcuni fenomeni che ci circondano, che ci permettono di fare delle riflessioni sulla realtà che ci circonda. I poeti simbolisti amavano descrivere la natura come una foresta di simboli, attraverso cui era possibile cogliere segni sottili rispetto ai sensi nascosti che giacciono in un paesaggio, in una vestigia di un tempio, di una civiltà che fu, in alcuni luoghi che attraversava il poeta e vedeva, leggeva, al di là appunto della realtà banalmente percepibile, come se fosse un'erma bifronte, quella che era la faccia nascosta, la faccia guardava al di là della dimensione più percettibile. Beh, noi anche modestamente e minimamente abbiamo una nostra foresta di simboli a cui fare riferimento e su cui osservare quelle che possono essere alcune derive dell'umanità, derive di gusto, derive estetiche, derive di sensibilità nei confronti delle relazioni tra esseri umani. Il pubblico ha deciso che il vincitore della 10ª edizione del Grande Fratello, che si aggiudica quindi il montepremi finale di 250.000 euro, è... Immagino signore ben pensanti, signore le pantaloni velluto e giacche di tweed che ancora portate, quelle polacchine che tanto andavano di moda una ventina d'anni fa, farete il segno del disgusto, del vomito dentro, dietro le vostre sciarpine di seta, dicendo: ma guarda di cosa ci tocca sentir parlare questa mattina, che cosa orribile, il Grande Fratello, mamma mia. Ma non ci sono delle osservazioni di segno più raffinato e più coerente sulla realtà che non questo burino spettacolo? No, questa mattina non ho mai parlato quasi mai del Grande Fratello quest'anno. Pensate che io per una quindicina d'anni ho guardato la realtà solo attraverso la televisione, attraverso il riflesso, attraverso la foresta simbolica dei palinsesti televisivi. Lo faccio molto più raramente perché ho esaurito la mia curiosità ad osservare quel mondo, non mi dà delle sorprese talmente evidenti, non ha delle mutazioni così interessanti da doverne parlare ancora, ogni tanto mi capita. Ma questa volta sul vincitore del Grande Fratello mi viene curiosità di soffermarmi. Quest'anno ha vinto, come spesso accade nel Grande Fratello, vincono uomini rozzi, uomini coatti, donne non necessariamente belle o personaggi che comunque catturano l'attenzione del pubblico. Esisterà una sorta di combine, sicuramente una percentuale di indirizzamento artificiale sul voto, sul consenso, la capacità poi di usare i mezzi correlati alla televisione per mettere in evidenza quello o quell'altro concorrente, il gioco del montaggio, le inquadrature nelle rivisitazioni del Grande Fratello. Ma il fatto che abbia vinto Mauro Marin, secondo me, è un segno su cui bisogna ragionare. Chi è Mauro Marin? Mauro Marin è un giovane che si distanzia notevolmente dalla media delle persone che sono andate al Grande Fratello perché sembra incontaminato dai condizionamenti televisivi. Gran parte degli ospiti del Grande Fratello, ormai dopo 10 anni di reality show, conoscono tutti i meccanismi, tutte le astuzie, tutte le malizie, tutti i tipi umani da incarnare per ottenere il successo. Quindi le coatte tatuate e scosciate, fingono amori e passioni lesbiche perché sanno che quel tipo di ambiguità potrebbe creargli un'attenzione, e quindi altri fingono dei profondi e radicali problemi di tipo esistenziale, altri si macerano sulle loro infanzie travagliate, sui genitori assenti, sulle anoressie, sugli autolesionismi, sui passati tenebrosi, fanno baluginare momenti di disperazione. Tutti sanno esattamente cosa occorre fare per vincere, ma ha vinto una persona che in realtà non ha fatto nulla per vincere, perlomeno ha rappresentato ciò che di più antitetico c'è alla costruzione coatta di un modello televisivo che crea successo nel Grande Fratello. Mauro Marin passa per essere un macellaio, quindi già in sé rappresenta una tipologia professionale abbastanza antitetica rispetto alle professioni che dovrebbero creare attenzione, creare interesse. Fa il macellaio, ma il fatto che faccia il macellaio è soltanto una costruzione. In realtà è un personaggio che parla quattro lingue, è un imprenditore, gestisce un'attività familiare, quindi è qualcosa di molto più. Ma ci è piaciuto pensare che in realtà sia l'uomo basico per eccellenza, il macellaio, colui che da dietro il banco amministra le passioni e i desideri delle proprie clienti, facendo ardite metafore fra i pezzi di filetto, fra le salamelle, fra gli insaccati e le allucinazioni e le lucubrazioni di tipo carnale che loro a quel banco in realtà chiederebbero. 800240024, quanto nel vostro immaginario pensate che conti la figura immarcescibile e intoccabile e oniricamente apprezzabile del salumiere perché abbia potuto vincere il Grande Fratello? Chiederò ad ognuno di voi di fare un piccolo appello breve per dire una cosa, non so, importante, che secondo voi è importante per far capire al pubblico che voi dovete vincere questo Grande Fratello. Cominciamo da Cristina, la donna. Cristina, perché dovrebbero votare te? Per aiutarmi a credere ancora di più, perché io sono arrivata qua ma ancora non ci credo. Alberto? Aiuterebbe anche a me ad abbassare ancora di più la testa e rimanere con i piedi per terra. Con i piedi per terra. Mauro? Io sono egoista ma mi pago il mutuo, Alessia. Sarò egoista ma mi pago il mutuo. Nelle liturgie tipiche del Grande Fratello si vuole che quando i vincitori, i finalisti, stanno per sottoporsi al grande giudizio del pubblico, alla grande giuria popolare, esprimono una sorta di desiderio, di motivo per cui dovrebbero votarli. E lì tutti naturalmente attingono agli stereotipi tipici da concorrenti di reality show. Perché realmente questo mi serve a capire cosa c'è di profondo in me, perché questo voto significa che io possa finalmente capire la profonda ragione del mio travaglio esistenziale. Sì, devono votarmi perché possa mia madre lontana, mio padre disperato, capire questo figlio. No, insomma, ognuno mette in anella una sorta di ipocrisia e pipparole proprio per creare ciò che lui non è. Invece il macellaio Mauro Marin dice la cosa che spiazza completamente tutti, perché mi servono i soldi che io devo pagare il mutuo. E già questo è un punto favoloso perché lui possa essere al centro. Quando io sentii questa frase nella penultima puntata o terz'ultima, non ricordo bene, disse a me stesso: questo signore vincerà, perché questo signore è completamente al di fuori di tutte le costruzioni della realtà nell'ottica televisiva, probabilmente quello che solleticherà la vera attenzione del pubblico. E mi sembra che l'ascoltatore Antonio sia d'accordo su questo. Antonio, buongiorno. Sì, d'accordissimo. Sono Nicoletti, complimenti. Allora, io dico questo, quando io l'ho spizzicato, non è retorica, non mi fermo a guardare. Mio figlio ha 12 anni, giustamente, se lo si fa prendere. Allora io quando mangio con lui o che cosa, e commento anche. È con me che alla fine essere se stessi paga. Sì, essere se stessi, dunque, la frase... Lui è se stesso, non è... Mi ascolti Antonio, la frase più logorata fra i concorrenti di ogni spettacolo televisivo è: sono me stesso, i genitori, i nonni, gli zii, i parenti laterali, quando lanciano il loro messaggio al concorrente dicono sii te stesso, quindi l'essere se stessi è la più grande contraffazione in televisione. Qual è la differenza nel macellaio Marin? E invece il macellaio non faceva apposta essere se stesso, lui è così. È veramente detto, così. Siete due donne in provetta alle due donne che fondamentalmente il pensiero mio era quello di lui, suo, cioè. Allora aspetti, Antonio, lei ha fatto una citazione da manuale, è giusto che noi osserviamo la documentazione stretta di quello che dice e la commentiamo assieme. È cattivo, è cattivo! Se tu veramente l'hai fatto per dividere me e lei, è stata una baffetta. Se salvo te la resta comunque, vi vedo sempre insieme e vi sbacciucchiate. E mi dà noia. Non te ne frega un c***o ad Alessia! Non gliene frega nulla ad Alessia! Tu sei proprio tagliato qua, vedi, così. Ormai sei smascherato, ne so. E ogni lunedì io, fino a che potrò, ti smaschero davanti a tutta Italia. Donne da provetta, io le chiamo. Sì, sì. Ecco, Antonio, le donne da provetta. Sì, è stato un grande, perché alla fine, cioè, di queste prese in giro, ormai ne abbiamo la quotidianità. Non c'è... La genuinità sta nel suo giudicare in tempo attimo quello che erano davvero queste due. Poi che hanno piano, fatto piano, le attrici. Piano, Antonio, piano, non strilliamo, sennò alziamo troppo la voce. Parli tranquillamente. Allora, spiego perché non tutti hanno visto. Queste due fanciulle, nei giochi intrecciati, il Grande Fratello, l'una mi pare fosse la fidanzata del bestemmiatore, colui che fu cacciato per la bestemmia, ma in realtà è sempre stato presente in tutti i retropalchi del Grande Fratello, a un certo punto scoppiò un amore con un'altra ragazza e fecero la coppia strana, si baciavano, si abbracciavano. Lui a un certo punto questa cosa gli sembrava, nella sua ottica da salumiere, elaborato rispetto a una persona che parla quattro lingue e con nozioni di marketing e di amministrazione, quindi. Però ci piace pensare che sia un salumiere, perché noi concretizziamo nel salumiere la figura dell'uomo basico che è stato premiato da questa edizione del Grande Fratello. Il salumiere ha capito che quella era come se fossero prosciutti che andavano a male, che rischiavano di essere sprecati, li vedeva come carne da buttare. Dice: smettetela con questa commedia perché non incantate nessuno. Loro naturalmente hanno subito additato come il politicamente scorretto. Siamo nel 2010. In realtà lui aveva capito che mettevano la lingua in bocca semplicemente perché risciavano la parte di quelle che lo facevano strano, sperando di ottenere attenzione, e quindi le ha smascherate. Ma Nicoletti? Sì, sono qua. Volevo dire, la cosa che poi dopo a me ha proprio dato la conferma che il Grande Fratello l'ha visto, va preso con le pinze sempre, però meno male che c'è una persona vera che va anche magari contro quello che è il palinsesto del Grande Fratello, perché poi lì c'è anche dietro chissà che cosa, no? Sì, però diciamo che ha funzionato, nel senso bravissimo, che... Bravissimo, bravissimo, ha funzionato. È stato funzionale anche a chi ha fatto, anche agli autori del programma, perché alla fine oggi parliamo di lui. Non avremmo parlato di lui se avesse vinto una persona che rientrava negli stereotipi, cioè nella simulazione di tutte le possibili lecite e tranquillamente percorribili strade. Però quando diventano oggetto di sceneggiata all'interno del Grande Fratello, uno dice diventa manierismo della differenza. E invece lui, l'uomo basico, il salumiere, ha detto: io sono questo, mi devo pagare il mutuo, sono un rozzo, bianco a bianco e nero al nero, non conosco le sfumature, non conosco i grigi, per me vale soltanto una realtà basica. Quindi l'uomo basico ha vinto. 800 24 00 24, questa mattina analizziamo Basic Man, l'uomo basico, il salumiere che ha vinto il Grande Fratello, colui che sembra al centro di tutto ciò che l'umanità aspettava che arrivasse, il liberatore dall'umanità, l'umanità, la nostra misera e particolare e limitata realtà nazionale, sembra che abbia trovato una sorta di paladino del libero pensiero. Anna Rita, lei è d'accordo oppure no? Sì, d'accordissimo. Ha detto semplicemente quello che gli altri italiani pensavano e non hanno avuto il coraggio di dire, anche gli stessi concorrenti della casa. Quindi secondo lei il fenomeno Mauro Marin ha messo in crisi tutta una costruzione artificiale, una lettura non coerente del nostro paese, che per 10 anni era stata costruita da ragazzi del Grande Fratello che si rifacevano a modelli che non appartenevano alla loro realtà familiare, alla loro realtà ambientale, alla loro realtà paesana. Fingevano di essere qualcosa che in realtà non erano, finché non è arrivato Marin che ha detto: il re è nudo, noi in realtà siamo questo. Sì, ma dica qualcos'altro, non solo sì, no. Deve elaborare un pensiero. Sì, ecco, arrivo. Il fatto, per dirti, del principe che ostentava appunto tutte quelle sceneggiate, non corrisponde comunque al prototipo di italiano italiano, il buffone. Le due ragazze. Ma c'è una radio accesa, qualcosa? Sento un rumore sì, solo. Sì, la spenga. Sì. Non può parlare okay. con noi e tenere la radio accesa. Va bene? Sì. Ok. Però ascoltava anche un'altra radio, non eravamo manco noi. Avanti. No, ascoltavo voi. Ah sì, ma lei mi sente al telefono, non si preoccupi. Anche le due ragazze, vabbè, fosse stato per me Veronica, se poteva entrare in casa l'avrei buttata fuori, a calci nel sedere. Ah, quindi in realtà la vera attenzione del pubblico medio italiano nei confronti delle punte di dissacrazione del pensiero comune del Grande Fratello è questa qua. Dice, vedete Marine come una sorta di vostro rappresentante, del vero rappresentante dell'italiano medio che guarda la televisione. Sì, e poi non ha ostentato comunque quello che era, ha detto faccio il macellaio, ma non ha mai detto conosco perfettamente quattro lingue, sono un imprenditore. Si è mostrato come un ragazzo normale. Va bene, grazie Anna Rita. Lucio, buongiorno. Ecco qua, buongiorno Nicoletti. Vediamo se riusciamo a elaborare un pochino più il pensiero, sennò sembra troppo semplice. Certo, io Mauro Marino lo conosco bene perché è un mio fornitore. Ah, perfetto, benissimo. Abbiamo una testimonianza. Certo, un bar-ristorante di cui la ditta Marino e Mauro in particolare veniva a farmi le consegne fino a prima che andasse là il Grande Fratello. Lei è un produttore di salumi. No, io sono un bar-ristorante, diciamo, consumo i salumi della Marin, che prima mi consegnava proprio Mauro in persona tante volte. Adesso senta, le posso chiedere un consiglio? Certo. Veramente, sì. Ho un problema familiare e personale, sì. Se mi aiuta, mi hanno regalato un prosciutto l'altro giorno. Crudo, cotto, cos'è? Un prosciutto crudo. Crudo, sì. Allora, io questo prosciutto qua, se lo apro, si ammuffirà, non riusciremo mai a mangiarci. Bisognerà mangiarlo in tempi brevi, insomma. E cosa posso fare? Qualcuno mi ha consigliato di tagliarlo in quattro e metterlo sotto vuoto. Si potrebbe metterlo sotto vuoto, dura qualche mese. In uso casalingo si potrebbe addirittura congelarlo e poi scongelarlo e tagliarlo a fette direttamente sulla fettatrice da congelato, volendo. Ah, posso surgelarlo il prosciutto? Sì, non ha problemi. Dopo, ovviamente, il gusto ne perde un po' come tutti i surgelati, però si conserva, diciamo. E se lo apro invece quanto dura fettandolo in casa? Giorni, un mese, bisogna affettarlo in tempi brevi perché sennò dopo la carne prende odore perché prende aria. Perché fra l'altro siamo in quattro persone, un prosciutto in un mese insomma, tagliarlo, metà metterlo sotto vuoto il congelatore, metà mangiarlo subito, così insomma si no, mi scusi, avevo questo problema. Per sdebitarsi, una mia amica mi ha portato un prosciutto a casa. Sono stato felice, ma adesso il problema è come fosse una bomba a orologeria. Non sappiamo se aprirlo o non aprirlo. Scusi, andiamo al punto allora. Lei conosce lui? Dopo un po' bisogna comunque aprirlo, perché anche in confezione non è che dura per sempre. Quindi. Sì, adesso dovremo risolvere il problema in questi giorni. Senta, allora, andiamo al punto. Lei è un... conosce direttamente il personaggio di cui stiamo parlando. Lo conosco bene, è venuto anche a casa mia, insomma siamo amici e conoscenti, è pure un mio fornitore, quindi un ragazzo che quando lo vedevo in televisione dicevo è proprio lui, nel senso è l'antitesi di tutto quello che vediamo costruito in televisione. Lui ha saputo prendere diciamo l'attenzione di tutti, perché di solito in televisione, come anche purtroppo nella vita, quello che è strambo prende sempre l'attenzione di tutti. Dopo magari sotto sotto non vale niente o non sa niente, non sa far niente. Però quindi strambo. La televisione spaccia per vera una realtà che in realtà non corrisponde al pubblico che poi la guarda. La vita, lo sappiamo tutti, è diversa, ma molto diversa da quella televisione. Mauro è andato lì e lui è così com'è, come l'abbiamo visto, perché quando lo vedevo lì, quando veniva da me in bar, veniva, è uguale, cioè, lui si muove così, pensa così, parla così, è uno di noi, uno di tutti, diciamo. Lucio, io la ringrazio molto del consiglio che mi ha dato, a parte la sua testimonianza personale. Grazie, buon lavoro. Carla. Buongiorno. Pronto? Sì, sto aspettando il suo giudizio. Ah, no, mi scusi, perché siccome ho messo l'auricolare che sto guidando, quindi... Allora, io intervengo, non ho mai visto una puntata del Grande Fratello nella mia vita, quindi non sapevo neanche di che cosa si trattasse, ho sentito quello che lei ha detto oggi in trasmissione. E da assolutamente estranea a questo mondo totalmente, lei ha passato 15 anni a vedere la televisione, io se in 15 anni ho visto 2 ore di televisione nella mia vita. E come occupava il suo tempo? Ecco, io purtroppo ho il brutto vizio di lavorare molto e la sera. Beh, guardi, non è che io mi giro i pollici. No, no, per carità, lei fa un lavoro di medie. Quindi lavora giorno e notte? Io ieri ho finito a lavorare alle 3 di notte. Ma che lavoro fa, scusi? Io ho un'azienda, una mia azienda, gestisco un'azienda, una sede in Italia e una sede all'estero. Vabbè, comunque, una top manager, pensavo facesse lap dance. No, assolutamente. Sarei stato felice. E quindi lei capisce. Comunque, ma a prescindere da questo, io facevo un'osservazione proprio banale da, da donna della strada. Donna della strada, è una top manager. Sono proprio sulla strada che sto guidando, sì. Sono ferma sul raccordo a Roma. Il discorso è uno, cioè mi sembra giusto. Cioè dire donna della strada ferma sul raccordo, guardi, suona male, la dica in maniera diversa. Ma si immagini che io una volta abitavo in un posto che adesso è stato rinnovato e diventato bello, e quando dicevo dove abitavo a Roma, tutti mi facevano queste battute, quindi ci sono abituata. Vabbè, mi piace che lei sia di spirito. Al punto, allora, lei però è stata solleticata dall'immaginario del salumiere. No, mi è piaciuta l'osservazione che lei e altri signori, anche questo signore che parlava prima, ha fatto. Cioè, sembra giusto che si ricominci, fosse anche una situazione di crisi in cui si torna un pochino tutti indietro, si comincia a vedere un pochino le cose vere. Io sono stata la settimana scorsa invitata a parlare a un convegno in cui si esaltava l'estetica della chirurgia plastica. Una signora addirittura diceva: ah, ma tanto noi compriamo tutto dalla confezione, quindi anche noi ci facciamo belle. Io dicevo: ma scusate, alla fine tutta questa finzione, perché noi siamo in un mondo di finzione, quelle che fingono di essere lesbiche, quello che finge di essere, cioè, ma è proprio necessario? Cioè, abbiamo veramente tutti questa esigenza di vedere questo mondo di cartoni animati? A me piace fingere, poi non lo so, ognuno, lo trovo molto divertente io la finzione. Però io trovo che bisogna, e ripeto, forse per questo io sono fuori da una realtà mediatica, io trovo che bisogna invece cercare di... Posso dire qual è, posso chiedere qual è il suo settore di professionale, di cosa si occupa lei? Noi facciamo macchine per la sicurezza. Noi siamo in diversi settori, comunque elettronica e sicurezza. Sistemi di sicurezza, cioè antifurto? No, macchine, diciamo macchine per banche. Facciamo macchine per controllare la veridicità del denaro. È un settore molto specifico. Sono l'unica donna nel mondo che fa questa cosa, fra le altre. Molto interessante, la contatteremo perché l'unicità ci interessa. Lei fa quelle macchinette che fanno la luce azzurra e si vede se i soldi sono falsi. Quelle sono proprio quelle banali, noi facciamo proprio macchine importanti. E siamo fra le cinque, l'unica azienda fra i cinque nel mondo che facciamo una cosa, insomma è una cosa un po' particolare. No, mi sembra questo sia la giustificazione più potente, perché che lei odi la contraffazione. Lei fa le macchine della verità, giusto, per i soldi, giusto. È la cosa più seria che esista nei rapporti fra uomini, quindi è logico che lei abbia in gran dispitto ogni forma di contraffazione. La ringrazio, riprende al suo lavoro sul raccordo, la saluto, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. La gente che ti vuole votare ha un solo problema con te, un problema importante. Io credo che vuole capire cosa alberga in te. Tu soffri di, come dire, di priapismo perenne. Allora, che vuoi dire in questo? Perché ci sono tutte tante donne che ti guardano e dicono: per Bacco, Gagliardo, simpatico, eccetera, eccetera, però santa miseria, è un satanasso. Che praticamente ognuno ha tipo le proprie vene artistiche. E viva le donne, la festa della donna, a me piacciono le donne in generale, sì, è vero. Un po' troppo, eh? No, va benissimo, che scherzi fa in solitudine. 800 24 00 24, stiamo analizzando la fenomenologia di Mauro Marin, del salumiere, l'uomo basico per eccellenza, colui che sembra che veramente abbia lacerato il velo dell'ipocrisia steso sull'universo maschile, ma non soltanto maschile, rappresentato da 10 anni di reality show. I concorrenti del reality show per 10 anni hanno preteso, perlomeno hanno illuso l'umanità, ma età limitata, le nostre latitudini del nostro paese, di essere rappresentati a quei ragazzi, che ognuno di loro rappresentava una parte delle nostre amicizie, delle nostre famiglie, dei nostri amori, dei nostri interessi. Poi invece arrivò Mauro Marin, il salumaio, che mise tutto in crisi, scoprì che in realtà era un universo artefatto, un universo costruito su valori che non venivano condivisi, su modelli umani che non venivano incarnati, su una vita reale, concreta, fittizia, costruita, immaginata, articolata su quelli che erano i resoconti dei rotocalti, su quelli che erano le letture trasversali, su quelle che erano le linee di tendenza, su quello che era il pensiero artificialmente costruito e soprattutto su un'idea politicamente corretta della realtà, non corrisponde corrispondente al nostro vigliacco e grezzo modo di concepire, di valutare, di percepire la realtà. Ma mentre parlavo e mentre mi affaccendavo e mentre mi affaticavo a risolvere questo problema, questo dilemma, a interpretare questo universo simbolico con i miei poveri strumenti di analisi, accadde qualcosa in questo studio che devo necessariamente raccontarvi. Lambì la porta di questo studio, entrò e Leggiadra si sedette al mio fianco e ora è con le sue labbra lucidissime vicino al microfono, indovinate chi? Sofia. Ricordate, giorni fa io divenni l'oggetto denigrato di gran parte del pubblico, in particolare un signore che mi dette del lumacone, del segaiolo e via dicendo, e mi insultò in maniera bestiale, semplicemente perché impugnai le istanze lecite della nostra ascoltatrice, tale Sofia, ben disposta alla sua intima d'azione, però dice sotto condizione. Colei che propose una piattaforma di minimo sindacale perché la donna potesse intimamente offrire, regalare, prestare, far annusare, far lambire semplicemente al genere umano maschile il suo più intimo segreto. Ora Sofia, per circostanze professionali, passata per Roma, è entrata nello studio. Buongiorno Sofia. Buongiorno a tutti. Ecco, Sofia è qui accanto a me materialmente. Ci darai una mano questa mattina, Sofia, visto che abbiamo un'osservatrice così attenta e così interessante dell'universo maschile nostrano, a valutare anche te il fenomeno Mauro Marin. Innanzitutto, proverò. L'hai visto, hai seguito, lo conosci? Sì, sì, l'ho visto, l'ho seguito ogni tanto. Potrebbe essere oggetto di intima d'azione, generalmente, secondo te, dell'italiana media? Ma io penso di no. Quindi Mauro Marin rappresenta semplicemente una sorta di paladino della realtà riscoperta. Su questo non ci piove, però l'oggetto dell'intima d'azione no, dell'italiana media. Ecco, ragione per cui ha vinto il Grande Fratello. In realtà chi vince il Grande Fratello, come vedi, non è mai un oggetto di intima d'azione. È vero, è vero. Sono d'accordo, perché oggi si fa differenza, non si guarda l'uomo Marin come quello che dovrebbe essere, cioè l'uomo normale, però anche capace, tutto sommato. Oggi si sta dietro, piuttosto ecco al palestrato che perde la testa per la Veronica, là, quella là, come si chiama? Sì, ho capito. Si guarda più un bestemmiatore. Tipo, oppure tutto l'uomo glamour, quel fashion di, come si chiama, il principe, adesso non mi ricordo il nome. Si preferisce accentrare l'attenzione su tipologie di uomini così. Comunque, però sono dei feticci inesistenti. No, sono inesistenti, artefatti, non c'è niente. Quindi il destino di Mauro Marin è quello di un eroe, di una sorta di paladino, una specie di Lancillotto. Deve mantenere una sua algida castità proprio perché è colui che disvela la falsità nella percezione dei valori della nostra società. Beh, non esageriamo, nel senso che magari troverà anche lui. Chiaramente, dal mio punto di vista, gli sarà più difficile andare sulla quantità, cioè se si dovesse fare una valutazione su quante potrebbe eventualmente impalmare, ne impalmerebbe di meno. Più impalare che impalmare, parliamo di intima d'azione, non di amore. No, vabbè, sì. Vabbè, diciamo che è sempre quella alla fine. Sentiamo Lina. Lina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E complimenti. Complimenti per il suo programma e per la sua voce. La trovo molto sensuale. Sì, adesso non vi lasciate trascinare dall'intima d'azione perché c'è Sofia in studio. Andiamo al punto. No. Qua stiamo parlando di Salumieri. Scusa? No, stiamo parlando di Salumieri. L'idea del Salumiere volevo... che questa volta... veste la candida armatura del paladino e del vendicatore dell'autenticità. Non lo conosco, Marina, mi dispiace. Allora perché io volevo intervenire su questo, su quello che lei ha detto all'inizio del programma, riferendosi alle signore con la pasmina in seta, con le pantaloni in velluto, i polacchini. Mi segue? Sì, sì, la sto sentendo. Ecco, io non mi distrae un po', Sofia, questo. Cioè, l'ha detto con un tono... come dire, povere che state là tutte belle agghindate e non guardate la realtà, non siete superiori. Non sono d'accordo con queste sue espressioni. La sua voce è bellissima, ma quello che dice non mi va bene. Articoli il suo pensiero, allora, sto ascoltando. Il mio pensiero è questo. E reality, per come... no, io me la prendevo con le rappresentazioni esteriori di un pensiero politicamente corretto, ormai ammuffito, vecchio, snob, che non osserva la realtà nella sua essenza, ma la sua realtà artificiale. Guardi, non è proprio questo, perché il fatto di guardare un reality che è proprio una finzione assoluta, che non c'è niente di vero, che non è educativo, cioè Le cose educative sono le più noiose del mondo, mi scusi. Ma certo che sono noiose, ma almeno impari qualcosa. Cos'è che devi imparare? Ah, io imparo anche dalle cose diseducative. Ad essere un bugiardo, a fingere per avere soldi, a fingere per avere notorietà. Cos'è che ci insegna? Guardi, l'ho visto raramente, poco di sfuggita, proprio le dico una cosa che mi nausea proprio, e non porta la sciarpina di seta, non porta i polacchini e i pantaloni di velluto, non mi importa niente, forse sono per le cose molto più reali. Questo tipo di mondo, quella parte così... La guardo veramente con la puzza sotto il naso, se questo è un termine, sì, quello che voleva dire all'inizio, però è un atteggiamento rispettabile. Se non ci fossero persone con la puzza sotto il naso, non potremmo noi osservare con attenzione questo rapporto fra realtà, visione snobistica e realtà. Poi esiste l'innamoramento plebeo, che è un altro tipo di artefazione. Diciamo, sono tutto un insieme di variegate rappresentazioni dell'umanità che a me affascinano, le guardo tutte. Quindi il suo punto di vista, dire io sono di quelli che guarda con la puzza sotto il naso, quindi il salumiere comunque mi fa senso, non fa parte della realtà, lo accetto. Franco. Sì, buongiorno. E niente, io avevo chiamato perché Marin secondo me rappresenta noi veneti, siamo molto concreti e badiamo sempre al sodo. Faccio un esempio, non so se si ricorda del concorrente vicentino del primo grande fratello, sì, Lorenzo Battistello. Sì. Secondo me quello era troppo prematuro per vincere, però Lorenzo Battistello era troppo avanti per i tempi. Marin avrebbe vinto oggi. Sì, però guardi, io non voglio dire, conosco bene la zona che lei ha citato. Meraviglioso posto, meravigliose persone, ma ci sono anche lì dei lati oscuri. Queste bellissime città, sagrestie d'Italia, sono le trapassa di notte e vede soltanto trans per strada, quindi cioè, ci sono dei lati di grande ambiguità come in ogni altro luogo del mondo. Non esistono, secondo me, le terre privilegiate, gli uomini duri e puri che vengono forgiati da certe circostanze ambientali. Mi fa piacere quello che lei dice, ma non posso fare a meno di sottolineare questo. No, non è d'accordo? Beh, relativamente, perché io ho girato un po' l'Italia. Beh, giri per Vicenza di notte, giri per Verona di notte, poi vede. Beh, io abito proprio Vicenza, quindi le conosco bene. Anche ultimamente siete stati lambiti da una storiella carina, interessante, divertente, ma molto boccaccesca. Quindi esiste una realtà esteriore e una realtà vissuta, che poi fa parte della letteratura, fa parte anche della realtà romanzesca degli ultimi decenni, fa parte della ricchezza del territorio, ma non possiamo dire che soltanto da quella terra escono gli uomini duri e puri. No, questo è vero. Poi volevo salutare questa occasione unica di salutare la Sofia. Lo so, già sto arrivando messaggi che non posso di cui non posso fare riferimento. Che è lo stesso nome di mia figlia. E quindi voglio salutare, volevo dire solo una cosa, che la trovo molto sofisticata, e volevo sapere però se nei suoi piani futuri di donna sofisticata ci sono anche quelli eventualmente di farsi una famiglia, perché mi incuriosirebbe molto saperlo. Non per me. Sì, sì, certo, beh, è chiaro. Diciamo che sono piani che non dipendono da me, io non posso decidere il futuro, perché il futuro è un po' lasciato al fatto, al caso. Che ne so io che incontrerò? Se incontrerò l'uomo giusto me lo farò, diversamente no. Me lo farò, cioè lo sposerò. Certo, no, vabbè, mi creerò una famiglia, nell'accezione in cui intendeva l'ascoltatore. Sì, lei ha perfettamente capito. Non dipende da me. Dipende, diciamo, dalle fattispecie di questo patto sindacale di cui stiamo parlando da qualche giorno, e spero che alla fine arrivi a una sua soluzione finale. Arriviamo alle indicazioni, informazioni sul traffico, anche se ci piacerebbe continuare sul filo di queste dissertazioni, ma dobbiamo sentirci fra un istante. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Lui fa televisione? Eh sì, una volta ogni tanto, sai, in certi Come casi... Come si chiama? Io sono Robert Redford. Andiamo! Alvy Singer. È molto gentile, grazie infinite, grazie. Ehi! Ehi! Questo è Alvy Singer! Ragazzi, sapete... Gesù. Lavora alla TV. Alvy Singer. Abbia pietà, la prego, abbia pietà, Cristo santo. Questo signore lavora in televisione. Perché non porterò mai addosso una clava? Chi è televisione? Questo signore, nel Johnny Carson Show. Ragazzi, cos'è questo? Un congresso di camionisti? Quale programma? Posso avere il suo autografo? Non vorrei il mio autografo. Voglio, sì, per la mia ragazza. Lei ci mette a Toto. La sua ragazza si chiama Toto. L'antitesi di Mauro Marin, del salumiere di cui stiamo parlando questa mattina, che sembra accendere il desiderio di autenticità degli italiani, che siano finalmente rappresentati in un personaggio, il Grande Fratello, anche coloro che non lo guardano, anche coloro che ne sono distanti, anche coloro che hanno sempre avuto in astio questa rappresentazione della realtà, questa tensione al di sopra di ogni consueta maniera di porsi nei rapporti interpersonali, trovano in realtà che Marine rappresenta l'uomo basico, il basic man che tutti aspettavamo che squarciasse il velo dell'ipocrisia della televisione. Sono in molti a telefonare, in molti soprattutto che mandano messaggi a cui non voglio dare assolutamente risposta, per il fatto che Sofia questa mattina con il suo tacco 14 siede accanto a me in questo studio. Se insisto poi mi danno del lumacone, ma in realtà è stata una eruzione in questa nebbiosa, fredda e tediosa giornata. Sono stato già accolto dalla solita manifestazione a Piazza dei 500, che già mi mette in disagio perché devo passare attraverso signori che sognano il panino con la porchetta, avvolti in cappellini gialli e bandiere non so cosa, che si avviano verso un incerto destino a Piazza della Repubblica. E quindi avere Sofia qui accanto in questo momento per me è come uno squarcio di serenità in questa triste giornata. Oh, che belle parole, grazie. Vabbè, adesso non ti allargare. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Senta, innanzitutto volevo fare i complimenti a lei e alla trasmissione, perché intrattiene veramente in maniera eccellente. Poi volevo dire una cosa. Io, come la signora sul raccordo, non... Era un'imprenditrice unica in Italia a occuparsi di sistemi di sicurezza, quindi... No, ma infatti mi ha molto colpito la cosa. Però il raccordo è fatto per gente che passa, ci passano tutti, qualcuno è fermo lì e qualcuno passa, che vuol dire? Senta, io quello che volevo dire, come quella signora, non mi è mai capitato di vedere il Grande Fratello, anzi attualmente non guardo neanche tanto la televisione, a parte qualche programma, perché è un po' arida, non mi stuzzica, non mi incuriosisce. Però quello che ha detto lei stamattina mi ha così incuriosito, per il fatto che mi ha fatto pensare anche al successo che ha avuto Dottor House ai tempi. Cioè, aspetti, ma è molto diverso, il Dottor House è tutt'altro che un rozzo. È un ruvido. Diverso, però ha questo ego, questa sua forza che lo porta ad andare contro le regole. È un ruvido sapiente, è una persona che in realtà si nasconde dietro molti suoi problemi, molte sue inadeguatezze, e soprattutto ha un rapporto piacevole con il sesso femminile. In realtà ama le donne, ma apparentemente le disprezza, le considera degli esseri, ha un atteggiamento un po' moralista nei confronti delle donne. Lui tende sempre a sottolinearne l'aspetto fedifrago, probabilmente perché ne è stato ferito nel suo intimo, e questo intriga le donne, perché le persone che lo circondano, sia le sue cape che le sue colleghe, sono molto affascinate. Da una parte sentono come un bambino disco a dover proteggere, d'altra parte sentono in lui l'uomo ruvido che in realtà non hanno più nei loro affettati edulcorati amici e colleghi. Certo. E poi anche un'altra cosa, l'ultimo film di Gerard Butler mi pare è La dura verità, dove appunto si presenta sempre quest'uomo ruvido con la sua tracotante personalità che impone il suo modo di vedere le cose senza ascoltare quello. Quindi che... Quindi lei è venuto il momento di dire basta con gli amichetti delle donne, con gli uomini comprensivi, gli uomini mostrino la loro differenza, la mostrino in maniera palese. Però guardi, non è che sia tanto ruvido Mauro è semplicemente basico. L'uomo ruvido è un altro, è l'uomo che mostra asprezza, non è aspro nei confronti del genere femminile, anzi ha provato disperatamente in tutte le maniere di goderne i favori. È semplicemente basico, non è artefatto, questo forse è il suo vantaggio. Sofia, nel rapporto fra dottor House e Mauro hai qualcosa da dire? Ma sono due personalità completamente diverse. Allora, Dottor House, come dicevi tu appunto, è una persona ruvida, anche un po' misteriosa, e che c'è là dietro questa sua scostanza, in realtà, almeno all'occhio della donna, dal mio punto di vista, un interesse, anzi un'intelligenza quasi particolare, anche sopraffina. Viceversa Mauro è molto simpatico, però è un po' cavernicolo, capisci? È basico, è semplice, dentro non c'è niente. È un po' rozzo. Sì. È come un osso buco, una volta che l'hai svuotato. È vero che è sincero, è un uomo basico, sicuramente è un uomo vero, è un uomo che è piaciuto perché ha fatto anche successo nella sua attività imprenditoriale, però al di là di questo è un rozzo. Poi, tu l'hai detto, non istiga la dazione. E non può riuscire a istigare nulla. La dazione con lui è impossibile. No. Invece col dottor House? È perché il dottor House ha quell'alone di mistero che dietro il quale si cela chissà cosa che io chiaramente. Sei giovane. E a molti piace. E per quanto scafata, credimi, quel groviglio misterioso è anche una grande costruzione di paraculaggine maschile. È molto facile fare i tenebrosi, fare quelli chissà quale segreto covano. Fa parte delle misere maniere che noi abbiamo per essere interessanti. Io pensavo che fosse anche un modo per mascherare tutte le sue grandi problematiche, insicurezze, dipendenze, sì, vabbè, e quant'altro. Poi, anche il suo problema, il fatto che sia claudicante, mostrare che si ha una gamba dolorante da qualche parte aiuta molto, diciamo, nel la sindrome del cucciolo da difendere. Vedi, hai capito perfettamente. Vediamo, Katia, ancora facciamo in tempo. Katia, velocemente. Pronta? Katia, una battuta conclusiva su questo uomo basico, sul salumiere che tanto ha affascinato e tanto ci ha dato argomenti questa mattina. Beh, io dico forza uomini, perché penso che in questo momento l'immagine televisiva, visto che si parla di televisione, sia talmente, scusate, denigrante per quella che è l'immagine dell'uomo, in quanto ci sono donne dappertutto, giornalismo sportivo in mano alle donne, figure bisessuali, ambigue, trans, eccetera, in televisione, che non si capisce più dove è finito l'uomo. Beh, oddio, non è solo in televisione, le cronache ci raccontano che in realtà la frequentazione fra uomo e uomo è una frequentazione culturalmente accettata e accettabile, quindi non è soltanto una costruzione televisiva, è una deriva reale e concreta del genere maschile. L'aprirsi anche a prospettive diverse rispetto a quelle del rozzo uomo che si pone come oggetto di desiderio, anzi che si prende quello che lui desidera. Sì, sì, io sono d'accordo su questo, non sto parlando dell'uomo rozzo, però sto parlando dell'uomo dignitoso, cioè dell'uomo che sia uomo in televisione, sincero, forte, leale, anche andando controcorrente, che però ha l'immagine sua che è quella lì, perché purtroppo io in televisione di uomini veri ne vedo molto pochi. Vabbè, oggi abbiamo quindi dato una giustificazione, anzi abbiamo dato una prova concreta, abbiamo confrontato l'opinione dei nostri ascoltatori sulla vittoria del Salumiere al Grande Fratello, abbiamo capito che in realtà questa volta, una volta tanto, ha vinto il Grande Fratello qualcuno che rappresenta veramente qualcosa nell'immaginario collettivo. Grazie a Sofia, riprenderai il tuo incerto destino e anche io riprenderò il mio, ci sentiamo domani. Grazie a te. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.